Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Hai voglia di morire per caso? Non è esatto. Io voglio solo correre. Potresti perdere l'auto. Facciamolo. È il tuo funerale. Ricordi, correre o morire. Siete pronti? Pronti? Pronti. Ai posti? Buongiorno, avete appena sentito un pezzo del soundtrack di Fast and Furious, il famoso film che narra le gesta di Brian O'Connor, interpretato da Paul Walker, e soprattutto di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, un film di ladri di auto, ma anche spionaggio, servizi segreti, thriller. Insomma, un film dove la velocità la fa da padrona, da protagonista. E perché vi ho tirato in ballo Fast and Furious? Perché sembra che siamo entrati nell'economia delle idee, l'economia digitale è stata definita dalla CEO di Hewlett Packard Enterprise, Mac Whitman, è stata definita l'economia delle idee, e sembra che la velocità sia fondamentale non solo per competere ma per sopravvivere. Mac Whitman, quando la sentite, parla proprio di speed e sembra, mentre lo dice, che sia lei stessa dentro Fast and Furious. Oggi ne parliamo con Stefano Venturi, che è un amico di questa trasmissione e che guida HPE in Italia. Lui ci parlerà di come mai, per le imprese che ci stanno a sentire e soprattutto per le imprese produttive, la velocità sia così importante e perché questa infrastruttura che loro hanno realizzato e che si chiama Synergy, che praticamente è il punto di arrivo di tutti i loro investimenti, ecco perché permetterebbe alle piccole imprese, alle medie imprese soprattutto, di essere veloci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Fast and Furious? Direi che è azzeccato, in quanto oggi siamo proprio nel mondo della velocità. Avete visto che tutto succede in maniera sempre più veloce, le innovazioni arrivano una dietro l'altra, non appena riusciamo a digerirne una ne arriva un'altra, ma soprattutto, come diceva all'inizio, siamo nell'economia delle idee. Mm-hmm. Perché l'economia delle idee? Perché oggigiorno anche una piccola azienda, una piccola startup può mettere a terra le proprie idee in maniera molto più veloce che in passato. Perché in passato c'era bisogno di dotarsi di infrastrutture tecnologiche importanti che rallentavano la messa a terra delle idee, non solo la rallentavano, ma stringeva il numero di soggetti che potevano fare cose innovative, cioè erano solo quelli che potevano accedere a grandi capitali e grandi infrastrutture, e in più rallentava l'operazione. Adesso anche con l'information technology di oggi, quella su cui noi stiamo investendo, che sarà anche quella di domani a partire da oggi, mm-hmm, riusciamo anche a abilitare una piccola startup, una piccola azienda a essere molto più veloce. Quindi basta delle ottime idee, degli ottimi ingegneri, chi conosce il mercato, e queste persone possono accedere alle risorse di information technology che sono sempre più importanti oggi per fare industria, mm-hmm, perché entrano anche nella fabbrica ora, riescono ad accedere a queste risorse in maniera più fluida. Cosa vuol dire più fluida? Non devono fare grandi investimenti in anticipo, quindi riescono a fruire delle infrastrutture in maniera granulare, poco alla volta, secondo di quanto utilizzano. E questa è un'innovazione enorme, perché mette nella grande partita dell'innovazione, mette potenzialmente tutti. Cioè, la velocità è importante, perché io posso sempre trovare qualcuno che rapidamente fa un'app e riesce a vendere in modo più sexy, diciamo, prodotti simili ai miei. Questo è veloce, mi porta via i clienti, dunque io devo reagire. Esatto, e non solo oggi, anche per un'azienda già consolidata, ebbene i competitor, i concorrenti saltano fuori da chi meno te l'aspetti, da gente che non conosci, che non vedi apparire, perché fanno altro, addirittura non esistono, che si palesano, si aggregano in pochi mesi. E quindi sia questi, se vogliamo essere i concorrenti di quelli già stabili, dobbiamo essere veloci, usare al massimo queste nuove tecnologie più fluido utilizzo, ma anche se siamo qualcuno già ben consolidato, dobbiamo essere veloci, dobbiamo velocizzare la modalità con cui le nostre infrastrutture tecnologiche vengono messe a disposizione dei nostri reparti di innovazione e soprattutto dei nostri clienti. C'è uno studio di IDC che dice che ci vogliono 160 giorni in media addirittura per rendere un'infrastruttura tecnologica capace di erogare nuovi servizi. È un'enormità se veramente così. Ecco, questo è già è la realtà di oggi, perché è comunque lunga, è molto più veloce di quello che era in passato, ma è la realtà di oggi. Ebbene, invece, chi è oggi più innovativo può accedere a delle forme molto più veloci, e il nostro annuncio di questa nuova grande piattaforma, che perché è una piattaforma tecnologica che si chiama Synergy, non sono semplicemente dei server. Va in questa direzione, lo spieghiamo dopo, perché ora ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fabbrica 2.4. Bella macchina. Quanto sta di listino una di queste? Più di quanto ti puoi permettere. È una Ferrari. Affumichelo. Rieccoci qua, ancora Fast and Furious, perché parliamo della velocità al tempo dell'economia delle idee, economia delle idee che poi arriva anche in fabbrica. Gli affezionati ascoltatori di questa trasmissione ci avranno seguiti quando abbiamo parlato di Big Data e di altri grandi temi che contaminano la fabbrica, perché nell'epoca del 4.0 le aziende, le industrie produttive devono diventare anche delle software house, il servizio si fonde col prodotto. L'analisi dei dati diventa fondamentale per competere e abbiamo a che fare con masse enormi di dati, con zettabyte, con big data. Di tutto questo ne stavamo parlando con Stefano Venturi, che è il capo in Italia di HPE, e lui ci stava raccontando di questo loro prodotto Synergy, che è un'infrastruttura componibile che dovrebbe permettere anche a imprese di dimensione più ridotta di gestire masse enormi di dati e soprattutto masse disomogenee di dati con anche dei picchi in termini di quantità. Tutto questo serve per competere, non è astratto, perché oggi ti arriva il concorrente che fa una app, all'improvviso lancia la app e nel giro di 3-4 mesi, se tu non riesci a reagire con quella app messa sui telefonini, ti frega metà del mercato. Giusto, no, dottor Venturi? Esattamente, è proprio così. Oggi l'information technology dell'azienda deve essere più fluida, più flessibile, soprattutto più veloce. La messa in opera di una nuova applicazione, la startup di un nuovo server, non deve più avvenire in giorni o in ore, ma deve avvenire in minuti, in qualche minuto, parliamo di proprio qualche minuto. E questa nuova architettura che abbiamo lanciato, Synergy, esatto, Hewlett Packard Enterprise Synergy, che a nostro avviso rivoluzionerà il modo con cui il computing verrà fatto ma in futuro. Ma ci spieghi esattamente che cos'è questo Synergy? È un server? Primo nato sotto forma di un server, che però forse è riduttivo definire server, perché è una nuova architettura che include al proprio interno tutto ciò che oggi c'è in un data center, quindi è un box dentro il quale c'è l'intero data center e all'interno del quale si possono configurare via software più macchine virtuali e inserire o disinserire queste macchine virtuali a piacimento, quindi via software in pochi minuti, e fare in modo che la nostra azienda, i nostri utenti, i nostri clienti possano accedere sia alle risorse che ho in azienda, sia a servizi cloud che ho all'esterno dell'azienda. Quindi basta il pensiero dei miei strateghi di innovazione o di marketing e io lo metto in opera immediatamente a costi marginali e ridicoli. Quindi una capacità computazionale atomica, voi scrivete, vuol dire che ci sono tanti server che sono componibili e quindi la media azienda ne può comprare uno e poi ne aggiunge degli altri, oppure vuol dire che possono agire come un solo server può agire come fossero tanti server? Sono entrambe entrambe le cose, proprio entrambe le cose, perché sia un'infrastruttura cosiddetta scalabile, dove si inizia un mattoncino alla volta e poi si può costituire un grandissimo data center, ma al tempo stesso un server anche molto piccolo può funzionare virtualmente come tanti server. Ma ciò che è l'innovazione proprio ancora più importante è che la messa in opera o lo smontaggio di questi server di cui ho bisogno all'occasione avviene veramente in qualche minuto, invece che in un giorno, due giorni di lavoro, di messa in opera dell'applicazione, startup del server e configurazione, il che abbatte i costi di funzionamento dell'information technology e abbassa il livello dell'azienda che si può permettere delle funzionalità di data center complesso, perché oggi se lo possono permettere solo dalle medie in su, perché ci vuole un'infrastruttura di persone, di sistemisti che ogni volta che tocco qualcosa siano lì a metterci mano, a configurare, a ribilanciare le cose. Bene, queste macchine lo fanno automaticamente da sole in pochissimi minuti, quindi anche chi non ha risorse lì a disposizione per servire i server se lo potrà permettere. Ecco, però la piccola impresa, che piccola vuol dire almeno 10 milioni di euro di fatturato, la piccola impresa che in ascolto sa che con Synergy acquisisce una capacità computazionale enorme con una spesa che può partire anche da 30-50 mila euro, però poi non basta, perché hai la capacità elaborativa, poi ci vuole il software e poi ci vuole la strategia che fa sì che questi dati vengano utilizzati per guadagnare dei soldi. Certo, e questa viene dall'idea dell'imprenditore, che per lo più c'è, perché noi abbiamo tanti imprenditori che hanno reso questo paese un punto di innovazione in tanti settori, che però sono stati frenati dalle complessità dell'acquisizione di infrastrutture che potessero mettere a terra le loro idee, e quindi le idee le abbiamo in questo paese e alla fine anche la cultura, perché se in particolare guardiamo il mondo della fabbrica, del manufacturing in Italia, la cultura tecnologica lì è molto avanzata, perché è gente, qui ci abbiamo persone che già anni fa hanno investito tanto nell'automazione industriale, nella fabbrica. Nell'automazione sì, nella computazione forse un po' meno. Molto meno, proprio per il fatto che gestire un data center richiede delle competenze totalmente pesanti e diverse da quelle della fabbrica, e quindi ne assorbirebbero. Ma perché questo data center se lo devono mettere in casa e non possono andare da HPE e dire dammi un pezzo di server e fai tu che facciamo prima? Quello che noi vediamo che sarà il mondo futuro sarà un mondo ibrido, questa è un'altra parola importante che dobbiamo tenere nelle nostre teste, l'IT sarà ibrido, cioè noi avremo sicuramente in casa, abbiamo bisogno di potenza elaborativa computazionale, perché per far funzionare le macchine di produzione devo averla in casa una parte di questo, alcuni dati sono anche dati riservati che voglio tenermi in casa, ma altre cose, altre applicazioni a queste devo accedere in cloud perché mi è più conveniente, mi costa meno, pago solo la frazione di ciò che utilizzo. E per questo ho bisogno di infrastrutture flessibili che gestiscono in modo virtuale tutti questi server virtuali. In modo da essere un po' in casa e un po' ospitati da chi mi dà la capacità computazionale. Ma perché è necessario che una parte almeno sia in casa? Ma il primo bisogno è la quantità di dati che vengono emessi dalle macchine di produzione che necessitano di una prima elaborazione dentro la fabbrica. Quindi avviene una prima elaborazione, un primo consolidamento, i dati vengono trasformati in dati più essenziali, detti anche metadati. Ah certo, perché se io metto un sensore su ogni pezzo e poi anche comunico con i miei pezzi che sono fuori, è ovvio che il primo giro deve essere dentro la fabbrica. E poi ci sono i tempi di latenza, eccetera. Allora, Synergy aiuta invece a orchestrare questa complessità, quindi fa una prima elaborazione di ciò che c'è in fabbrica, poi se voglio mi faccio tutto dentro perché può arrivare a potenze immense, oppure in maniera molto economicamente sostenibile fa questa elaborazione, trasforma i dati in dati più essenziali, cioè appunto in metadati, e poi li trasmette a un data center che sarà in cloud, quindi un vero esempio di IT ibrido a basso costo, non solo a basso costo, ma anche che non richiede un know-how troppo articolato nella gestione dell'information technology. Ecco, dobbiamo chiudere, ma continueremo sicuramente a occuparci di questi temi. Allora, salutiamo Stefano Venturi, che ricordo per chi si fosse sintonizzato adesso, che è il capo in Italia di HP Enterprise e ci ha appena parlato del loro sistema Synergy. Arrivederci, dottore. Arrivederci. E saluto gli ascoltatori che vorrei che continuassero a seguirci. Noi saremo in onda sabato prossimo, ore 14, con Fabbrica 2.4.